Radio 24 Reportage. La salute disuguale spezza l'Italia in due, di Andrea Ferro. Abbiamo il lettino dove il paziente viene posizionato, attorno a lui gira questo gantry con il fascio di protoni che esce da quella struttura e irradia direttamente il paziente. Diciamo, l'erogazione del fascio è di qualche minuto, il trattamento è suo complesso, posizionamento, preparazione, parti tecniche, mezz'ora al massimo, insomma, generalmente. È un trattamento che è esattamente equivalente a quello che si fa in radioterapia, almeno in trattamenti radicali. Noi siamo orientati su trattamenti definitivi, cioè che possono avere un effetto curativo nella stragrande maggioranza dei casi. I pazienti trentini si possono rivolgere con libertà e vengono tutti decisi all'interno di gruppi multidisciplinari che esistono nel nostro ospedale e sono rimborsati dal sistema sanitario provinciale. Tutti gli altri pazienti possono in teoria rivolgersi, ma hanno bisogno poi di un'autorizzazione al momento da parte dell'azienda sanitaria o della regione di provenienza. Per raccontare la sanità disuguale non occorre guardare il planisfero avventurandosi a diporto tra il primo, il secondo e il terzo mondo per poi arrotolare i paragoni e sancire le ingiustizie. La voce che avete appena sentito è di Maurizio Amichetti e arriva da Trento, dove dirige il centro di prontoterapia. Lì, da poco più di 2 anni e mezzo, i tumori si combattono bombardandoli appunto con i protoni prodotti da un enorme ciclotrone, una specie di cannone potente tanto enorme quanto preciso millimetrico nella mira. Una terapia efficace e decisamente meno invasiva, soprattutto a beneficio dei bambini. Ma come avete compreso, pur essendo una struttura di eccellenza interamente pubblica, per realizzarla la provincia autonoma di Trento ha investito qualcosa come 102 milioni di euro, più o meno il costo di un caccia dell'ultima generazione, l'accesso e quindi la possibilità di essere sottoposti alla terapia sono riservati a pochi, selezionati non necessariamente sulla base di una valutazione clinica. In genere funziona così: a contattare il centro il paziente o i suoi familiari, l'equipe valuta il caso e quindi l'eventuale appropriatezza del trattamento. E sempre dal professor Maurizio Amichetti sentiamo quello che poi succede. Prepariamo una relazione motivata sul perché andrebbe fatta la protonterapia e la inviamo all'azienda sanitaria di appartenenza. La corrediamo con un preventivo e chiediamo specificamente all'azienda di farsi carico del costo di questo paziente. In genere cosa rispondono? Dunque, la risposta è molto variabile, cioè, può essere sì in alcuni casi, la maggioranza è no, e soprattutto a volte le risposte arrivano in tempi inadeguati. Spesso le aziende non sanno di cosa si tratta, oppure non sanno che la loro regione ha preparato delle delibere specifiche o ha dato delle indicazioni specifiche, quindi questa la parte amministrativa burocratica è veramente travolgente per noi, insomma, per arrivare a fare un paziente passa spesso troppo tempo, noi alla fine spesso anche decidiamo noi di non fare più il trattamento, perché nel frattempo è cambiata la situazione. Quindi la sorte di un paziente è appesa al caso nella maniera più assoluta. E spesso anche alla buona volontà dell'organizzazione inviante e alle capacità che hanno queste strutture. Insomma, con la prontoterapia, se si è nati a Trento un discorso, se invece si risiede, giusto per fare un esempio, in Calabria o in Liguria, in Sicilia o piuttosto in Umbria, può essere un burocrate a decidere se vale la pena di avviare la terapia. Per la cronaca, un ciclo di prontoterapia, complessivamente una trentina di sedute, costa circa 23.000 euro, più o meno il doppio di un trattamento di radioterapia. E sempre per la cronaca, il centro di Trento è l'unica struttura pubblica di questo tipo al mondo, tutte le altre 54 sono private. E qui sta un po' il paradosso del nostro sistema sanitario. Altrove non esistono di così completi, cioè strutturati per garantire ogni tipo di cura a carico interamente dello Stato, quindi delle casse pubbliche, ma come sentiremo spesso si tratta di un'eccellenza virtuale. E non solo. Come si evince dalla storia di Trento, all'interno del nostro paese la sanità disuguale spezza e spariglia il territorio. Mario Braga, dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. La realtà dell'Italia è una realtà estremamente disomogenea. Abbiamo un Nord Italia che ha tranquillamente la capacità di confrontarsi con i paesi del Nord Europa in termini di mortalità, in termini di successi, di sopravvivenza per esempio in oncologia, di numero di interventi di cesareo fatto, mentre il sud arranca e si trova molto spesso più a confrontarsi con i paesi in coda, come fanalino di coda dell'Europa. Negli studi e nei numeri questa differenza si traduce in maniera lampante. Secondo un'analisi presentata al Festival dell'Economia di Trento, dedicato appunto alla salute disuguale, le differenze si manifestano all'interno di una stessa città, tra i quartieri residenziali e quelli popolari. Chi abita nei primi ha un'aspettativa di vita superiore, almeno 5 anni in più. A determinare questa discriminazione sono il reddito, il livello di istruzione, le relazioni sociali e i fattori ambientali. Va da sé, in un quartiere residenziale in genere si respira un'aria meno inquinata, ci sono alberi, spazi verdi, le fonti di emissioni nocive sono meno e magari lontane. In genere esiste un sistema di servizi e di relazioni che favoriscono la qualità della vita, cosa che non è affatto scontata in un quartiere di periferia, inteso non solo geograficamente. Gilberto Turati è professore associato di Scienza delle Finanze all'Università Cattolica del Sacro Cuore ed è un esperto di politiche sanitarie. Questo fa sì, diciamo così, che ci siano delle diseguaglianze che sono dinamiche e non solo statiche da un certo punto di vista, cioè il ricco ha più probabilità, diciamo così, perché riesce a fare prevenzione prima e forse sa anche che la prevenzione è importante. Perché ha un livello di istruzione tale che lo mette su quella strada? Che gli consente di prendere le malattie per tempo, alcune malattie per tempo, e quindi di avere una mortalità più bassa o comunque una longevità più alta. È anche vero che però con i ticket, i super ticket, c'è chi rinuncia a fare qualche esame. Sì, questa è un'aberrazione. Il super ticket in particolare è stato pensato per fare cassa, non certo per controllare la domanda come una volta. Se tu arrivi ad avere il prezzo di un servizio che supera il costo di produzione, vuol dire che stiamo facendo qualcosa di diverso, stiamo addirittura guadagnandoci per vendere, diciamo così, al cittadino un servizio che può andare a comprarsi dal privato a un prezzo più basso. Talvolta c'è anche il medico della sanità pubblica che prescrive un po' di meno perché diventa virtuoso rispetto alla sua azienda sanitaria. Sì, questo mi piacerebbe vedere qualche dato. Certamente ci sono dei casi al contrario rispetto a quelli che diceva lei, cioè casi in cui invece il medico della sanità pubblica sovraprescrive, per cui ci sono tutte e due le cose, dipende molto dall'etica individuale di ciascun medico. A divaricare questa forbice, a rendere appunto la salute ancora più disuguale negli ultimi anni, ha contribuito, come in parte sentivamo già, la crisi. Meno lavoro, disoccupazione, la cosiddetta classe media risucchiata verso il basso, meno reddito significa quindi anche meno possibilità di investire sulla salute, di curarsi. Secondo un recente rapporto del Censis, nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato a prestazioni sanitarie o le hanno rinviate. Sono stati 1,2 milioni in più rispetto a quanto avvenuto nel corso dei 12 mesi precedenti. Sempre secondo il Censis, per far fronte alle spese sanitarie, 7,8 milioni di italiani hanno dovuto utilizzare tutti i risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le banche. Di questi 1,8 milioni sono entrati nella cosiddetta area della povertà. Nello stesso periodo, complessivamente, le famiglie hanno speso oltre 35 miliardi di euro per curarsi, cioè il 4,2% in più rispetto al 2013. Contemporaneamente, ce lo dice sempre lo studio del Censis, in Italia è diminuita la spesa pubblica per la sanità. Si è trattato di una riduzione del valore pro capite dell'1,1% all'anno in termini reali dal 2009 al 2015. L'incidenza rispetto al PIL è pari al 6,8%, in Francia è dell'8,6%, in Germania si arriva al 9,4%. Eppure, ripetiamo, gli osservatori internazionali dicono che il nostro sistema sanitario pubblico è tra i migliori al mondo. A leggere le cronache, l'idea è diversa. Per provare a trovare un punto di equilibrio sul quale focalizzare l'analisi, ci siamo rivolti a Giuseppe Remuzzi, nefrologo di fama mondiale, coordinatore delle ricerche dell'Istituto Mario Negri di Bergamo. Le persone non si rendono conto della fortuna che abbiamo. Ieri abbiamo sentito l'intervento di una signora che dice: io ho questa malattia, ho fatto il trapianto di midollo, sono andato così, però c'è questo e quest'altro, e alla fine c'erano delle piccole cose. E questa signora ha fatto il trapianto di midollo senza pagare nulla. Questo è un miracolo che non riusciamo a fare e che non riesce a fare nessun altro paese al mondo. Certo, ci dobbiamo organizzare meglio, dobbiamo cambiare alcune cose, dobbiamo cambiare il fatto che la gente vada negli ospedali e si senta dire: lei per fare questa mammografia la può fare domani se paga, oppure tra 3 mesi gliela fa la stessa persona attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Questa è una cosa che va assolutamente abolita, perché è ingiusto e perché tradisce la vera missione del Servizio Sanitario Nazionale. Dobbiamo cambiare molte cose, ma non cediamo alla lusinga delle assicurazioni, perché sarebbe un disastro, come si è rivelato essere negli Stati Uniti. Il paese più ricco del mondo ha la sanità in grande difficoltà, e questo è documentato da un lavoro meraviglioso che ha fatto il Lancet. L'idea è che ci sia di nuovo un ritorno al profitto. Quanti centri privati che fanno concorrenza al settore pubblico sulla base di tariffe inferiori o pari al ticket? La mia idea è che chiunque ha il diritto di spendere per la salute e i suoi soldi, come può spendere per andare in vacanza o per comprarsi una barca. Non c'è limite a questo e non c'è limite al profitto, secondo me, da parte del privato. Basta che il privato non debba essere sostenuto dalla fiscalità collettiva e che chi non ha la possibilità di pagare per le malattie importanti possa essere aiutato dal nostro Servizio Sanitario Nazionale. Nel frattempo la tecnologia e la ricerca vanno a passo spedito, un processo che spesso brucia le tappe, al quale si aggancia la visione, forse l'illusione, di una salute meno disuguale. Roberto Cingolani, direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, uomo di scienza, distilla speranza e solido pragmatismo. Bisogna riuscire a migliorare il farmaco, le diagnostiche, le terapie, portandole a più basso costo e ad essere più dirette, no? E quindi da un certo punto di vista, se uno migliora la diagnostica e la terapia, la porta a basso costo, la porta più accessibile, è chiaro che sta diminuendo il diciamo health divide, no? La separazione nella qualità della salute. Poi sentite, è una chimera, cioè purtroppo il mondo si sta divaricando sempre di più, persino i nostri paesi si divaricano, quindi noi siamo qui a fare tentativi di democratizzare delle cose importanti per la vita, sapendo che in realtà tutto il resto non è che funzioni così, però ognuno deve dare il suo contributo, è giusto parlarne. Parliamo di salute. Certo, è una delle cose più importanti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.